parco mio, tuo genitor non sono, tu mi tradisti, oddio, non posso far perdono, per te non me perdono, non me pietà, non me perdono, non me pietà. Fuggi dal parco mio, tuo genitor non sono, tu mi tradisti, oddio, tu mi tradisti, oddio, fuggi dal guardo mio, tuo genitor non sono, tu mi tradisti, oddio, non sperar perdono, per te non v'è pietà, no, per te non v'è pietà. Oddio, pietà, non v'è perdono, per te non v'è pietà, non v'è pietà, non v'è pietà. Nel cielo il cuore di fiamma è inesorabile, eterno ed implacabile, eterno ed implacabile, lo sdegno mio sarà, eterno ed implacabile, lo sdegno mio sarà. Tu mi tradisti, oddio, fuggi dal guardo mio, no, oddio, non è perdono, no, oddio, non è perdono, no, no, non è perdono, non è pietà, non è pietà, no, no. Non v'è pietà, non v'è pietà, non v'è pietà, non v'è pietà.